Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta il mondo, l'attualità, la cultura, la gastronomia dal punto di vista di tutti gli animali, con un'attenzione particolare per gli animali non umani. È la puntata numero 566 e parleremo di difensori del pianeta, di elefanti e delfini prigionieri, di cani e gatti famosi, di visoni e di calciatori. Il tutto impreziosito dalla musica scelta da Giuseppe Coco e dalla ricetta della settimana pensata per noi da Gabriele Palloni. Ci piace cominciare questa puntata riprendendo un articolo di Marta Facchini dal sito del mensile Altra Economia, dedicato ai vincitori del Goldman Environmental Prize 2020, un premio internazionale dedicato agli attivisti per la difesa dell'ambiente, giunto alla 31esima edizione. È un premio prestigioso, una sorta di Nobel dell'ambientalismo, come viene definito solitamente sui media. Sono 4 donne e 2 uomini e sono queste persone una guida da seguire, ha detto il presidente del premio John Goldman, perché dimostrano che ogni persona ricopre un ruolo vitale nella protezione e nella cura del nostro pianeta ferito. Ecco i loro ritratti. Sono Crystal Ambrose, 29 anni, fondatrice del Bahamas Plastic Movement. A 22 anni, Crystal aveva assistito al soffocamento di una tartaruga marina, causato da un sacchetto di plastica, e quel giorno decise che non avrebbe più buttato a terra un pezzo di plastica. Crystal poi è andata anche oltre, e il movimento da lei fondato è riuscito a ottenere dal governo delle Bahamas il divieto di uso dei sacchetti e posate monouso, di cannucce, tazze e contenitori di polistirolo. È un divieto entrato in vigore quest'anno. Né Monte Nenquimo fa parte del popolo Waurani, insediato nel parco di Yasun in Ecuador, ed è cofondatrice di Celebo Alliance. Con altri leader del suo popolo ha intentato causa contro il governo dell'Ecuador, che aveva messo all'asta 202.000 ettari di foresta amazzonica per avviare attività estrattive, dichiarando di aver acquisito il consenso del popolo Waurani che in quella foresta era insediato. Consenso che però non c'era. Nenquimo ha guidato la causa legale contro il governo di Quito, vinta sia in primo grado che in appello. Cibeze Ezequiel è il coordinatore nazionale di 350 Gun Reducing Our Carbon, filiale locale della ONG 350.org. Si è opposto con la sua organizzazione al piano del governo ghanese, che intendeva insediare nella città costiera di Aboano una centrale a carbone e un porto riservato ai traffici legati a questa produzione, il tutto realizzato con capitali cinesi. Cibeze ha lanciato una campagna di informazione sui rischi per l'ambiente e la salute e alla fine il governo ghanese ha rinunciato al progetto, lanciando invece un piano per il passaggio alle energie rinnovabili. Quarta premiata è Lady Peck, una apicoltrice maya messicana che ha guidato una coalizione di organizzazioni riuscendo ad impedire alla multinazionale Monsanto di piantare semi di soia geneticamente modificati nel Messico meridionale. Poi c'è Seintua, che fa parte della comunità indigena dei Karen in Myanmar ed è fondatore di un parco da 546.000 ettari sul fiume Salween, fra il Myanmar e la Thailandia, un parco creato nell'intento di salvaguardare la biodiversità. L'area era messa a rischio da deforestazione, agricoltura e attività estrattive. Infine, sesta premiata, l'unica europea, Lucie Pinson, direttrice della ONG Reclaim Finance, che fra il 2017 e il 2019 ha contribuito a spingere le principali banche e gruppi assicurativi francesi a sospendere gli investimenti nel settore del carbone. Fra gli strumenti usati dall'ONG c'è anche l'azionariato critico, ossia l'acquisto di azioni societarie in modo da poter partecipare e prendere parola durante le assemblee degli azionisti. Sono sei persone a capo di sei progetti importanti, di sei modi di intervenire nella realtà per cambiarla. Non sono eroi, ma di certo, come dice il responsabile di Goldman Price, sono guide del nostro tempo. Ai sei attivisti vincitori di un premio prestigioso ne vogliamo aggiungere un settimo, citando un articolo di Stefano Liberti uscito sul settimanale L'Espresso. È un pezzo su Paulo Paulino Guajajara, giovane brasiliano ucciso a colpi di fucile un anno fa. Aveva 26 anni ed era a capo di un gruppo di cosiddetti guardiani della foresta in Amazzonia. Agivano contro i tagliatori illegali di legna nella foresta con attività di pattugliamento. È stato ucciso in un'imboscata, come altri prima di lui. Gli interessi in gioco in Amazzonia sono enormi, nel commercio di legna, nell'agricoltura, nell'allevamento. Stefano Liberti, dopo aver ricostruito il caso e il contesto del delitto, conclude così il suo articolo. Bisogna allargare lo sguardo per comprendere il fenomeno nella sua interezza. Se le aree vengono occupate, disboscate, trasformate, è perché esiste un florido mercato globale per i prodotti che qui vengono coltivati. La carne e la soia prodotte nelle immense distese a monocultura vengono esportate in tutto il mondo. In questo l'Europa ha un ruolo non trascurabile. Il 12% della soia prodotta in Brasile arriva nel nostro continente. La stessa zootecnia italiana ne importa ogni anno 1,3 milioni di tonnellate, la metà delle quali proprio dal Brasile. In un gigantesco effetto farfalla, i roghi in Amazzonia e l'azione dei guardiani della foresta ci riguardano molto più da vicino di quanto pensiamo. In un mondo così interconnesso, un inesorabile filo rosso sembra unire la bistecca che compriamo al supermercato e l'assassinio di Paolo o Paulino nel suo territorio ancestrale, in una remota area del Maranhão. Stai soffrendo, cosa posso fare per te? Mi sono innamorata, per te pace non c'è. Ah, mondo, se rido e se piango. Let me. dagli attivisti umani che si impegnano per difendere la vita sulla Terra da un sistema economico vorace e ormai insensato, a storie di animali emerse in questi giorni alla luce della cronaca. Ce ne parla il nostro Francesco Cortonesi. Due notizie importanti che riguardano un elefante e un delfino. La prima è che Kavan, l'elefante dello zoo di Islamabad, conosciuto anche come l'elefante più solo al mondo, ha raggiunto sano e salvo un santuario per elefanti situato in Cambogia. Per la prima volta, dopo ben 9 anni, Kavan ha finalmente potuto incontrare un suo simile e le fotografie di questo spettacolare momento stanno facendo il giro del mondo. Kavan è molto noto anche grazie all'interessamento della rockstar Cher, che negli ultimi 2 anni si è battuta senza sosta per trovare una nuova sistemazione all'elefante. Grazie all'intervento dell'associazione internazionale 4Paws, ora la missione è compiuta. L'altra notizia riguarda Casia, una femmina di delfino abbandonata all'interno di un delfinario fallito a Teheran. Il delfinario, costruito nei piani alti della Torre Milad, ha chiuso i battenti nel 2019 e Casia non è stata trasferita. Ora, dopo alcune campagne internazionali portate avanti principalmente da YouCare France e in Italia dal centro recupero Ricci La Ninna, Casia è in cerca di un santuario per cetacei, attualmente individuato in Crimea. Purtroppo però l'organizzazione del viaggio è ancora molto difficoltosa e non poche sono le problematiche da risolvere. Nei giorni scorsi, ad esempio, il sindaco di Teheran aveva ordinato lo sfratto della struttura, mettendo a rischio la vita di Casia. Per fortuna, un'importante campagna internazionale mail bombing ha scongiurato, almeno per il momento, il peggio. Ora però bisogna fare in fretta per organizzare la partenza del delfino. Seguiranno aggiornamenti. Una buona notizia arriva da Parigi, sede dell'UNESCO, l'organismo delle Nazioni Unite per la Cultura. La corrida non sarà patrimonio mondiale dell'umanità, almeno per quest'anno. L'UNESCO ha infatti escluso la sua candidatura dalla lista 2021 dei beni culturali immateriali dell'umanità, decretando così che la pratica non merita di essere salvaguardata. Durante la pandemia la corrida ha subito un brusco stop. E per questo l'Associazione Nazionale per la Tauromachia aveva inviato una richiesta all'Organizzazione delle Nazioni Unite facendo appello alla situazione di emergenza che stava vivendo la corrida in Spagna e chiedendo di far avanzare la pratica per la richiesta di riconoscimento come patrimonio immateriale dell'umanità. Tale riconoscimento avrebbe consentito alla corrida di essere salvaguardata e quindi sovvenzionata con denaro pubblico. Le associazioni animaliste spagnole non solo erano ovviamente in sorte e si erano opposte lanciando la campagna La tortura no es cultura. Alla fine l'hanno spuntata. In questi tempi difficili che viviamo, ha detto Marta Esteban, portavoce del movimento che ha lanciato la campagna, è fondamentale difendere le espressioni culturali che promuovono la vita, non la morte, e che facilitano la coesione della società. Scozzata in mezzo al mare, ci è il cardillo che muore per amore, ti è il dolce cane che piange di dolore, e è l'elefante ancora da cacciare, F la faraona ancora da mangiare, ci è la gallina bollita dalla zia, H è l'homo sapiens e sai che cosa sia, I è l'insetto inchiodato con lo spino. Nei giorni scorsi i media hanno riportato la notizia dell'infortunio al piede subito dal presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden. L'anziano uomo politico si è fatto male mentre giocava vicino a casa con i suoi cani, 2 pastori tedeschi, Champ e Major, destinati a seguire Biden nell'avventura alla Casa Bianca, dove a gennaio sembra che tornerà dopo qualche anno anche un gatto. I coniugi Biden hanno infatti detto di volerne prendere uno. Questa loro decisione forse è un modo d'essere bipartisan non solo in politica. Lì si parla almeno di un ministro del nuovo governo preso nel campo repubblicano, ma anche rispetto agli animali da affezione più diffusi, quindi due cani ma anche un gatto. Non è naturalmente una novità la presenza di cani e gatti alla Casa Bianca, semmai si tratta di un ritorno, visto che i coniugi Trump non ne avevano. Per il passato si possono citare i coniugi Clinton, che arrivarono dall'Arkansas con il gatto Sock, a cui affiancarono poi il Labrador Buddy, mentre nella Casa Bianca di George W. Bush i più famosi terrier, Barney e Miss Beasley, fecero ombra alla gattina Willie Bush. Fra i presidenti gattari merita una menzione speciale Abraham Lincoln, che ne ebbe parecchi, alcuni dei quali randagi, fra cui i celebri gattini Tabby e Dixie, gattini che presero il posto nel cuore del presidente dopo la decisione di lasciare il cane fido a Springfield una volta eletto. Ora aspettiamo di conoscere l'identità e il nome del first cat. La scoperta di una variante del virus SARS-CoV-2 in alcuni allevamenti di visoni ha scoperchiato un mondo in tutta Europa, mostrando l'orrore di queste strutture concentrazionarie dove si allevano esseri viventi per scuoiarli. Il governo danese nelle scorse settimane ha deciso l'eliminazione per ragioni sanitarie di milioni di questi animali. Ma l'emergenza è proseguita dopo l'abbattimento, poiché i visoni sono stati seppelliti in fosse comuni nella penisola dello Jutland, vicino però a un lago balneabile e nei pressi di una fonte di acqua potabile. Dalle fosse, scavate in modo approssimativo e poco profonde, sono cominciate a emergere le carcasse putrefatte degli animali, spinte in alto dai gas di fosforo e azoto sviluppati nel processo di decomposizione. Un'emergenza nell'emergenza, insomma, una pesante minaccia per l'ambiente e per la salute, un nuovo caso di malaccorta gestione. I deputati danesi dell'opposizione sono insorti e hanno chiesto al governo di riesumare i resti dei visoni per cremarli in modo da disinnescare l'inquinamento del terreno. Una vicenda a dir poco penosa. Anche in Italia esistono allevamenti di visoni e il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato nei giorni scorsi un'ordinanza che vieta per 3 mesi l'allevamento di visoni. Un provvedimento tutt'altro che coraggioso e probabilmente anche inadeguato. I 3 mesi fino a febbraio prossimo, fa notare la LAV, Lega Antivivisezione, sono quelli durante i quali il normale ciclo di produzione dei visoni, se vogliamo chiamare così questo orrore, l'inciso è nostro, è di fatto fermo. In pratica è come se si fosse vietata la vendita degli ombrelloni da spiaggia nei mesi invernali, dice la LAV. Decisamente più determinato il governo ungherese, che ha annunciato il divieto di allevamento di visoni e di altri animali da pelliccia, come volpi, puzzole, nutrie. Sono specie, queste ultime, attualmente non allevate in Ungheria, e quindi il divieto vale per il futuro. In Ungheria, in verità, restano ancora attivi allevamenti di cincillà e di conigli per la lana d'angora, ma il governo sembra intenzionato a porre fine anche a queste produzioni. L'iniziativa del governo ungherese, commenta la LAV, è lungimirante e l'unica realmente efficace ad evitare almeno la possibile ulteriore diffusione del coronavirus da allevamenti intensivi di visoni. Questa vicenda, aggiungiamo noi, ha mostrato la crudeltà e l'insensatezza degli allevamenti di animali da pelliccia, un anacronismo che merita di essere eliminato una volta per tutte, riconvertendo queste terribili strutture in attività davvero utili per la società. Si può fare, è il momento di farlo. Stefano Liberti, nell'articolo citato all'inizio della puntata, mostrava il nesso invisibile che lega la bistecca comprata al supermercato e l'assassinio di uno dei guardiani della foresta in Amazzonia. Viviamo, come dice Papa Francesco, in un'economia che uccide e la filiera alimentare, che è un suo sottoinsieme, è un sistema che produce molte morti, soprattutto animali, ma come abbiamo visto, anche umani. Il passaggio a un'alimentazione a base vegetale è dunque desiderabile e capace di produrre effetti concreti, limitando questa economia della distruzione e anche l'attacco all'ambiente, ormai divenuto insopportabile. Un'interessante notizia in questo senso arriva dalla Scozia, dove il Greenock Morton Football Club è diventato il primo club scozzese di calcio a rimuovere la carne dalla dieta dei giocatori. Il club è diventato vegetariano per migliorare le prestazioni fisiche degli atleti e a quanto pare sta funzionando. L'allenatore David Hopkin ha spiegato qual è l'origine della svolta. «Non mangio carne da 2 anni ormai», ha detto. «Ne ho parlato con i giocatori e ho detto loro che mi sento benissimo. Così, l'anno scorso, abbiamo iniziato a ridurre la carne e quest'anno abbiamo pensato perché non essere il primo club completamente vegetariano?» E così è stato, grazie anche alla presenza di un volonteroso cuoco nello staff del club. I giocatori si stanno divertendo, si trovano bene e affermano che le loro prestazioni sono migliorate. Insomma, qualcosa si sta muovendo anche nel conservatore, spesso reazionario, mondo del calcio. Come dimostra, peraltro, il caso di Chris Smalling, calciatore inglese della Roma, vegano, è così convinto che il futuro sia nell'alimentazione a base vegetale da investire denaro in un marchio di carne vegana. Al Greenock Morton Football Club la scelta è motivata soprattutto da ragioni di salute. Smalling ha un punto di vista più largo. «La cosa che mi ha spinto di più a diventare vegano, ha detto in un'intervista, è il benessere degli animali. Forse ho cominciato per gli aspetti legati alla salute, visto che mi riprendevo meglio senza mangiare carne dopo le partite. Poi ho visto alcuni documentari, ho letto dei libri, ho scoperto cose difficili da ignorare. Neanche mia moglie si aspettava che diventassi vegano, ma quando ho cominciato a capire, il benessere degli animali è il fattore che mi ha spinto a dire «Ok, da oggi sarò vegano». I'm in the phone booth, it's a one across the hall. I heard your mother now. proposito di alimentazione vegetale, è il momento del nostro tosco vegan chef Gabriele Pallone e del suo spazio etico-gastronomico Il Pasto Gentile. Gabriele è autore di un libro appena uscito, Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Kavan, elefante dello Sri Lanka vissuto in uno zoo del Pakistan che finalmente potrà vivere fuori dalla gabbia in un santuario faunistico della Cambogia, la cui storia ha coinvolto niente po' di meno che l'iconica star Cher. Non poteva che meritarsi una ricetta dedicata. Così la ricetta di questa puntata è quella di un dessert tipico cambogiano, il Num Sai Soi, un dolcetto di riso al vapore. Gli ingredienti per 4 persone sono: per la pasta 50 g di farina di riso, 650 ml di latte di cocco, 50 g di zucchero di canna e un pizzico di sale. Per il ripieno mezza tazza di polpa di cocco fresco grattugiata, 20 g di semi di sesamo tostati, 100 g di zucchero di canna e 50 ml di coconut cream. Iniziate preparando il ripieno. In una casseruola unite il coconut cream e lo zucchero di canna e fate cuocere a fuoco medio, mescolando con una spatola. Quando lo zucchero si sarà sciolto, unite la polpa di cocco grattugiata ed i semi di sesamo tostati e lasciate sul fuoco fino a quando il cocco avrà assorbito tutto il liquido, quindi lasciate intiepidire. Nel frattempo realizzate la pasta. In una casseruola mescolate la farina di riso con il latte di cocco, lo zucchero di canna e il pizzico di sale. Fate cuocere a fuoco medio mescolando con una frusta fino a quando la farina di riso si sarà addensata, ottenendo una crema liscia e compatta. Recuperate il ripieno e realizzate delle palline grandi come ciliegie. Ritagliate dei quadrati di carta forno e adagiate al centro un cucchiaio di pasta di riso, quindi disponete al centro la pallina di ripieno e chiudete a triangolo la carta, schiacciando un po' al centro, per ottenere una sorta di piramide. Infine fate cuocere a vapore per 10 minuti e servite. La ricetta originale prevede di confezionare i dolcetti con foglie di banano, che potrete sostituire con la carta forno. Per questa settimana è tutto, vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla, Gianluca Masala e Lorenzo Guadagnucci, che vi parla. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.